Componimento quinto dei canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. A un vincitore nel pallone, di gloria il viso e la gioconda voce, garzon bennato apprendi, e quanto al femminile ozio sovrasti la sudata virtude, attendi, attendi, magnanimo campion, s'alla veloce, piena degli anni, il tuo valor contrasti, la spoglia di tuo nome. Attendi, e il core muovi ad alto desio, te l'echeggiante arena e il circo, e te fremendo appella ai fatti illustri il popolar favore. Te, rigoglioso dell'età novella, oggi la patria cara, gli antichi esempi a rinnovar prepara. Del barbarico sangue in maratona non colorò la destra quei che gli atleti ignudi e il campo eleo, che stupido mirò l'ardua palestra, né la palma beata e la corona d'emula brama il punse, e nell'alfeo forse le chiome polverose e i fianchi delle cavalle vincitrici asterse, tal che le greche insegne e il greco acciaro guidò de medi fuggitivi e stanchi nelle pallide torme, onde sonaro di sconsolato grido l'alto sen dell'Eufrate e il servo Lido. Vano dirai quel che disserra e scote della virtù nativa le riposte faville, e che del fioco spirto vital negli egri petti avviva il caduco fervor, le meste rote da poi che Febo instiga, altro che gioco son l'opre de mortali, ed è men vano della menzogna il vero. A noi di lieti inganni e di felici ombre soccorse natura stessa, e là dove l'insano costume ai forti errori esca non porse, negli ozi oscuri e nudi mutò la gente i gloriosi studi. Tempo forse verrà ch'alle ruine delle italiche moli insultino gli armenti, e che l'aratro sentano i sette colli, e pochi soli forse fien volti, e le città latine abiterà la cauta volpe, e l'atro bosco mormorerà fra le alte mura. Se la funesta delle patrie cose, oblivion dalle perverse menti, non isgombrano i fati, e la matura clade non torce dalle abbiette genti il ciel fatto cortese dal rimembrar delle passate imprese. Alla patria infelice, o buon garzone, sopravviver ti doglia. Chiaro per lei stato saresti allora, che del serto fulgea, di ch'ella è spoglia, nostra colpa è fatal. Passò stagione, che nullo di tal madre oggi sonora, ma per te stesso al polo ergi la mente. Nostra vita a che val? Solo a spregiarla. Beata allor che ne perigli avvolta se stessa oblia, né delle putri e lente ore il danno misura e il flutto ascolta. Beata allor che il piede spinto al varco leteo più grata riede. Fine del componimento quinto.